Ma certamente sì, può essere. Oppure, oppure può essere che lei voglia qualcosa di preciso, assolutamente, in modo aggressivo da questa persona. Cioè lo sta portando nel suo spazio intimo, che è lo spazio molto vicino, tirandolo verso di sé. E in questo modo bisogna che lui possa reagire in un modo altrettanto tonico, altrimenti lui ha la peggio. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi chiama da Perugia. Sì, sì, buongiorno. Buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione, sia a lei che a tutti i suoi colleghi, io ascolto sempre nei miei 50.000 chilometri annui. Oh, Stefano, grazie. Niente, volevo fare una domanda al dottore. A me, vabbè, oltre alla stretta di mano classica, guardando la persona negli occhi, qualche volta, soprattutto quando c'è confidenza con le persone, mi capita di avvicinare anche la mano sinistra, stringendo la mano con tutte e due le mie mani. Insomma, la stretta di mano a sandwich. Esatto. Dottor Padrini. È un rafforzamento certamente di quello che è l'aspetto del contatto, come diceva giustamente, a sandwich, quindi può essere raddoppiato, oppure può essere che con la mano destra noi stringiamo la mano e con la sinistra l'appoggiamo sul braccio, sulla spalla, e questo è un aumento della confidenzialità. È la postura volontaria, cioè io comunico qualcosa di me volontariamente attraverso il corpo. C'è poi la postura involontaria, che secondo me è anche più interessante, e che serve a capire le reali intenzioni dell'altro nei miei confronti a sua insaputa. Dice Vaslavic, io parlo a lui, che mi ascolta apparentemente benevolo, ma con le braccia conserte, pare sia sintomo di diffidenza, chiusura, sospetto. Beh, così è così. Adesso, come mi scriveva un ascoltatore, non è che se uno è positivo ha sempre le spalle belle tese, aperte, non ha mai le braccia conserte. Insomma, bisogna, dottor Padrini, entrare un po' in sintonia. Poi non è che se parliamo con uno che ha le braccia conserte vuol dire che è chiuso. Abbiamo preso proprio questo spezzone per, sì, non si può arricchire così un po', perché vedere, sennò estremizzare la situazione. Certamente è un messaggio che deve coincidere con quello verbale, quello del corpo, perché nel momento in cui noi diciamo, come un politico dice, bisogna fare la pace e esprime una modalità di guerra, certamente quello che occorre poter tenere presente è il messaggio non verbale, che è sempre più veritiero, ahimè. Grazie allora ai miei ospiti che ci hanno accompagnato fino a questo momento, e dai gesti passiamo alle parole. Alle parole che un grande medico, uno tra gli immunologi italiani più noti al mondo, usa per raccontare vita e avventure del nostro sistema immunitario. In linea con noi il professor Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas di Rossano, docente all'Università degli Studi di Milano, autore di I Guardiani della Vita, un libro di cui parliamo oggi, di cui io vi consiglio caldamente la lettura, perché riesce a farci capire con parole semplici concetti difficili. Professore Mantovani, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Professore, lei usa la chiave della metafora per aiutarci a comprendere le vicende incredibili che accadono dentro di noi e che regolano anche un sofisticato sistema da cui dipende la nostra salute. Parliamo del sistema immunitario. Andiamo a sentire un breve estratto del libro e poi lo commentiamo insieme. Il sistema immunitario è stato di volta in volta paragonato ad un'orchestra o ad un esercito. Due metafore fra loro molto diverse, rappresentative di due aspetti differenti ma complementari e strettamente intrecciati del modo di funzionare dell'immunità. L'orchestra, metafora spesso utilizzata all'interno della comunità scientifica, al punto che alcuni congressi internazionali di immunologia sono stati aperti o chiusi da immunologi che suonavano appunto in un'orchestra, allude al ruolo di mantenimento di una vita ordinata dell'organismo, a partire dallo sviluppo embrionale, con direttori, i linfociti T, che sovrintendono all'armonico funzionamento di tutti i componenti, gli orchestrali e gli strumenti, che non abbiamo ancora finito di identificare. La metafora bellica o poliziesca allude invece al ruolo del sistema immunitario nella risposta all'aggressione da parte degli agenti microbici, proprio come un esercito ben organizzato dal punto di vista delle gerarchie e delle specializzazioni. Si tratta di due facce della stessa medaglia. Sono due meccanismi chiave del sistema immunitario: riconoscimento e comunicazione. Riconoscimento perché deve individuare la presenza di invasori, aggredirli e riparare il danno subito, senza danneggiare i componenti normali dell'organismo e distinguendo fra microbi buoni e cattivi. Comunicazione, perché per fare tutto questo nel modo giusto e senza autodanneggiarsi è necessario un sistema di trasmissione delle informazioni efficace ed efficiente. Professor Mantovani, riconoscere e comunicare. Il sistema immunitario è organizzato per svolgere queste funzioni, ma quali sono i meccanismi che gli permettono di riconoscere e di funzionare e di comunicare? Riconosce attraverso dei recettori e risolve attraverso dei recettori il problema di riconoscere prima di tutto quello che non è se stesso da se stesso. Noi riconosciamo, rigettiamo i trapianti, tutti lo sappiamo. E poi deve riconoscere i microbi buoni dai microbi cattivi. Questo capiamo ancora poco bene come funziona. È importante che noi riconosciamo i buoni dai cattivi, in quanto i microbi buoni aiutano il nostro metabolismo e aiutano il sistema immunitario stesso a svilupparsi e a orientarsi bene. Poi, come in una società complessa o in un esercito ben organizzato, è essenziale che ci siano dei sistemi di comunicazione efficienti. E le cellule dell'immunità comunicano come facciamo noi umani. Comunicano toccandosi, ci stringiamo la mano, ci abbracciamo, ci accarezziamo, ecco, le stesso fanno le cellule dell'immunità e comunicano parlandosi con parole, e noi stiamo comunicando con parole, io e lei e gli ascoltatori. Le parole le chiamiamo in gergo citochine. Professore, quindi le cellule parlano, il nostro sistema immunitario ci protegge, questo sappiamo noi, dalle malattie, lo vogliamo quindi tutelare, preservare, rendere sempre più agguerrito, pensando alla metafora dell'esercito, o armonico, pensando alla metafora che invece lo descrive come un'orchestra. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, in linea con noi abbiamo il professor Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas e docente all'Università di Milano, e qui con noi come autore di un libro, I Guardiani della Vita, di cui parliamo oggi, un libro che spiega come funziona il sistema immunitario e il suo ruolo nella medicina del futuro. Professor Mantovani, ma il sistema immunitario maschile e quello femminile sono diversi, lavorano in modo differente, perché sembra che nelle donne a volte il sistema immunitario perda la bussola, da difensore diventi aggressore. Come mai? È vero, a volte perde la bussola e lo fa più frequentemente nelle donne che non negli uomini. Questo perché in una donna il sistema immunitario ha due problemi unici e specifici da affrontare. Deve accettare un trapianto, cioè la gravidanza, che il prodotto, il bambino che cresce è diverso dalla mamma, e quindi deve accettare un trapianto, al tempo stesso deve proteggere il trapianto e deve proteggere quindi il feto e il bambino. Mi piace ricordare, è triste meglio ricordare, che ci sono circa 1 milione di bambini persi a causa di infezioni in gravidanza. Questo fa sì che il sistema immunitario della donna sia diverso e più prono a sviluppare autoimmunità. Però sono stati fatti grandi progressi nel controllare le malattie autoimmuni, perché abbiamo imparato a conoscere le parole sbagliate dell'autoimmunità, e proprio recentemente, ad esempio, è stato introdotto per la prima volta dopo 30 anni un farmaco nuovo contro una malattia autoimmune tipica delle donne, che è il lupus. C'è un capitolo, professor Mantovani, nel suo libro dedicato alle allergie, che interesserà credo molti lettori, dato che gli allergici sono tanti e in aumento. Andiamo a sentire. Le malattie allergiche costituiscono un problema grave e crescente. Si calcola che nel mondo occidentale ne soffra dal 20 al 30% della popolazione, ma l'incidenza è in continuo aumento. Per lungo tempo si è pensato che tale incremento fosse legato a fattori ambientali, in particolare all'inquinamento. Tuttavia, molti dati contraddicono questa visione. Ad esempio, un confronto tra popolazioni geneticamente simili, effettuato da Erika von Mutzius in Germania all'epoca della sua divisione politica, è emerso che, contrariamente a quanto ipotizzato, la frequenza di malattie allergiche non è affatto correlata con il livello di inquinamento, allora estremo nella parte est e decisamente minore nella parte ovest. Ancora, in Austria, alcuni studi hanno messo a confronto bambini con un grado di benessere simile, residenti in villaggi di campagna. I risultati hanno evidenziato che fra loro, chi è esposto frequentemente ai microbi presenti nelle stalle è più protetto dalle allergie. Ciò ha indotto a formulare un'ipotesi alternativa per l'aumento delle allergie, nel 2002 estesa da Jean-François Bach, cristallizzando una serie di osservazioni precedenti anche alle malattie autoimmuni, l'eccesso di igiene, o meglio, il nostro successo contro i microbi che ha portato con sé questo prezzo da pagare. Professor Mantovani, ma lei titola il capitolo dedicato alle allergie «Non tutte le allergie vengono per nuocere». In che senso, professore? L'allergia è una risposta sbagliata, è una risposta contro qualcosa di innocuo, ad esempio un polline, contro cui non dovremmo montare una risposta immunitaria, non dovremmo dichiarare guerra. In realtà questi sistemi sono nati per proteggerci contro i parassiti, ad esempio i vermi, e sono stati fondamentali per noi in un sistema, in un contesto di vita selvaggia, per sopravvivere appunto ai vermi e ai parassiti. Dobbiamo imparare a riorientare e riutilizzare questo tipo di difese. Professore, l'orchestra, l'esercito, metafore che lei ha utilizzato per descrivere il sistema immunitario, funzionano, lavorano bene perché si allenano. Gli orchestrali fanno le prove, i militari l'addestramento. Che cosa allena il nostro sistema immunitario? Ma innanzitutto il primo allenamento sono i vaccini. I vaccini sono stati un contributo straordinario alla qualità della nostra vita sul pianeta. Io ho fatto in tempo ad avere il compagno di classe con l'eso da poliomielite, nessuno dei miei figli e nessuno dei miei nipoti vedrà cose di questo tipo. Dobbiamo non dimenticare il nostro passato da questo punto di vista. Quindi l'uso dei vaccini è la prima forma di allenamento del nostro sistema immunitario. La seconda modalità di allenamento è lo stile di vita. Ad esempio l'obesità, quindi uno stile di vita sbagliato dal punto di vista dell'alimentazione per quantità e qualità, l'obesità attiva risposte infiammatorie sostenute appunto dall'immunità che ci causano una serie di problemi, il rischio di diabete, il rischio di malattie cardiovascolari. Un'altra forma di allenamento è quello di non usare in modo sconsiderato gli antibiotici. Noi usiamo troppi antibiotici e facciamo del male a noi stessi come individui e come società, e male al nostro sistema immunitario. Infine, evitare l'eccesso di igiene. Le buone norme che ci hanno insegnate le nostre mamme di lavarci le mani prima di andare a tavola e così valgono sempre, ma vediamo degli atteggiamenti di eccessiva attenzione, di lavaggio continuo. Ecco, l'eccesso di igiene sicuramente è da evitare. E poi, e questo è un consiglio personale, quando si ha 38 di febbre non è necessario abbatterla immediatamente. La febbre è un sistema di difesa. Professore, proprio dalle conoscenze, dallo studio del sistema immunitario che la ricerca è riuscita a provare a scoprire e poi a provare un legame tra infiammazione e cancro. È una scoperta che ha rivoluzionato, no? Ha fatto proprio un vero proprio cambiamento di rotta in oncologia. Abbiamo scoperto che all'interno dei tumori ci sono dei poliziotti corrotti. I tumori non sono fatti solo da cellule tumorali, ma sono fatti anche da cellule normali dell'ospite, fra cui, sorprendentemente, ci sono dei poliziotti, cioè di cellule che dovrebbero fare il compito di uccidere, hanno il compito di uccidere le cellule tumorali, invece aiutano il tumore a crescere. questi poliziotti corrotti si possono fermare ed è una delle frontiere della ricerca in immunologia è quella di fermare i poliziotti corrotti. L'altra frontiera è quella di riattivare il sistema immunitario che non funziona contro i tumori e questo è un momento di grandissima speranza perché per la prima volta abbiamo farmaci che riattivano le difese immunitarie approvati per uso clinico, per esempio nel melanoma. Professor Mantovani, io la ringrazio, ricordo il titolo del suo libro, I Guardiani della Vita, Dalai Editore, un libro per capire come funziona il sistema immunitario e il suo ruolo nella medicina del futuro. Professor Mantovani, grazie e buona giornata. Grazie a lei e un saluto agli ascoltatori. E prima di salutarvi vi ricordo che oggi si celebra la 18ª giornata mondiale Alzheimer. I volti della demenza è il titolo della campagna mondiale che riunisce malati, familiari e associazioni Alzheimer di tutto il mondo. I malati di Alzheimer e di altre demenze sono oggi stimati 36 milioni nel mondo e sono numeri destinati ad aumentare drammaticamente nel giro di pochi anni. Di fronte a questa emergenza sanitaria, famiglie, medici, ricercatori, associazioni Alzheimer e istituzioni sanitarie sono chiamate ad agire insieme per dare risposte concrete ai bisogni dei malati e dei loro familiari. Noi abbiamo accolto l'invito della federazione a togliere la foto dal nostro profilo Facebook lasciando per tutto il giorno la sagoma bianca di default. Questo è un semplice gesto simbolico per dichiararci a fianco della federazione. Per conoscere le iniziative promosse su tutto il territorio nazionale dalle 46 associazioni Alzheimer riunite e coordinate dalla federazione Alzheimer Italia vi invito a consultare il sito www.alzheimer.it da cui è possibile scaricare anche il rapporto mondiale Alzheimer 2011. Vi rimando all'archivio di Essere Benessere dove potete trovare puntate dedicate a questa malattia raccontate da medici, ricercatori, familiari e pazienti. E per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta Carbone, a domani. Essere Benessere.